9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon giovedì 17 di febbraio. Oggi una trasmissione dedicata ad alcune delle misure che più mi hanno colpito del decreto mille proroghe che ha avuto ieri la fiducia in Senato. Che cos'è il decreto mille proroghe? In questo ordinamento italiano in cui le procedure di adozione di modifiche alle norme che devono essere finanziate sono diventate sempre più bizantine, quindi appena finisce la sessione di bilancio inizia una specie di finanziaria bis eterogenea che si chiama appunto legge mille proroghe, in quanto sono la conferma delle quote di finanziamento annuale di provvedimenti finanziati solo pro tempore. Questo è il mille proroghe, una specie di, appunto, di omnibus in cui si sale e si mette e si toglie come in una salsiccia tutto ciò che nella finanziaria non è riuscito a entrare, e quindi è una misura, per così dire, in cui si trova veramente di tutto. Una delle classiche cose che piacciono a coloro che sostengono la sovranità del Parlamento, perché più è varia ed eterogenea la pezzatura delle carni diverse che vanno nell'insaccato, meno è facile per il cittadino capire che cosa davvero viene approvato. E poi naturalmente sui giornali va solo la notizia della fiducia, perché è un pochino complicato mettersi a spiegare l'eterogeneità delle norme. In queste misure di solito si trovano delle belle sorpresine, quindi di solito vale la pena approfondire, e temo che queste siano cose che diano di più alle tasche dei cittadini, alla vita concreta, effetti di tutto quello che volete voi in ordine a rubi, non rubi, cose importantissime. Però, per carità, non si può parlare solo di quello, lo dico perché continuo a ricevere moltissime mail che dicono: servo di Berlusconi, tu ogni giorno dovresti spiegare come qualmente ci organizziamo nelle piazze per cacciarlo. Le piazze sono lì, se le volete fatelo, ma io non posso ogni giorno piegarvi tecniche di insurrezione alla egiziana. I cittadini italiani hanno una propria testa e sono in grado di giudicare se queste vicende, che hanno un impatto istituzionale devastante dell'immagine dell'Italia, comportino che ci debba fare l'informazione dalla mattina alla sera come chiamando il popolo alle armi. Io non sono convinto. Detto tutto questo, nel mille proroghe invece ci sono alcune cose che sicuramente sono positive: le norme per le banche che potranno utilizzare compensazione del credito d'imposta per Basilea 3, visto che devono patrimonializzarsi, non dovranno così tagliare subito almeno il credito alle imprese. Tra l'altro, positiva la notizia ieri anche della protrazione della moratoria per 190.000 imprese italiane e 56 miliardi di capitale, che era finita il 31 dicembre. Ricordate quante volte nelle trasmissioni lo dicevamo. Ci sono tante misure, per così dire, poi necessarie: quote di finanziamento in più per la parte d'Italia coperta dalle alluvioni, un pacchetto di norme per i terremotati in Abruzzo, la conferma fino a giugno della protrazione per gli aiuti del Veneto, di cui tante volte ci siamo occupati, colpiti dalle alluvioni, le risorse necessarie per finanziare il fondo unico per l'università. Poi ci sono però anche tante altre norme che francamente a me danno molto molto molto fastidio, e quindi ne ho indicate due apposta. Ne parleremo di un altro paio, ma due apposta con cui vorrei cominciare. La prima è quella che, dopo tutte le polemiche intervenute sul taglio ai fondi del Ministero dei Beni Culturali, i fondi per sostenere lo spettacolo, introduce un euro di tassa aggiuntiva per il biglietto al cinematografo. Ecco, una tassa in più che in teoria è una risposta parziale a chi dice lo Stato sbaglia a tagliare i fondi al cinema. Io sono dell'idea che i fondi al cinema non bisogna darli, ve lo dico brutalmente. La cosa che mi fa girare molto le scatole è che lo Stato mi dica poi: e quindi, siccome però li volete, ti tasso. Perché francamente mi sembra un'impostazione inaccettabile. A maggior ragione se vedo poi che, per un'altra cosa che classicamente ha a che vedere invece con le prerogative della politica, il regime di rispetto delle regole che a me contribuente lo Stato chiede inflessibilmente: se sgarro di 5 secondi nel pagare la scadenza, vado automaticamente a pagare il sovrappiù. Voi direte: è giusto? Certo, è giusto, a patto che lo Stato faccia la stessa cosa nel rapporto con me. Però, che non valga la regola simmetrica per cui se io sgarro di 5 secondi mi si taglia il dito e poi la mano e poi il braccio, mentre invece lo Stato si prende la licenza e la libertà di fare quello che vuole nei miei confronti. Ecco, come invece capita sia per la scadenza fiscale che con una di queste norme che stanno nel milleproroghe, di cui veramente non riesco a capire la ratio, se non quella di farmi marameo come cittadino e contribuente. Di che cosa sto parlando? Sto parlando della norma che estende e proroga il condono per i manifestini dei partiti politici, che non capisco perché si devono prendere la libertà di fare quello che vogliono nelle città, di sporcare, di fare pagare me come contribuente, perché poi bisogna rimuovere tutto ciò che è stato messo nelle affissioni legittime, e poi di volta in volta si dicono vabbè, abbiamo scherzato, mica vorrete che paghiamo la multa. Ecco, allora, a me queste misure che passano nelle salsicce legislative, per cui mi si bastona dicendomi se voglio andare al cinema un euro in più, e poi mi si cogliona, se permettete il verbo, perché tanto i partiti e i politici fanno quello che vogliono, mi sembrano dare una misura, per così dire, di come funziona in concreto la politica, non meno rilevante di tutti gli scandali etici che preoccupano la maggior parte delle pagine dei giornali. Non meno rilevante se penso poi che c'è l'ennesima proroga per le quote latte. Mi dispiace per gli amici leghisti, io penso che la dobbiamo fare finita con chi non ha pagato i contributi e continuare ad andare avanti. Ci sono misure di un'altra serie di problemi di cui ci siamo occupati spesso. Ricordate quante trasmissioni abbiamo fatte sugli scandali edilizi in Campania e soprattutto a Ischia? Ecco, nel milleproroghe c'è l'ennesima protrazione, ovviamente, del termine per il quale niente ruspe per gli abusi in Campania e Ischia. Bene, allora, questa è l'Italia che eterna tutti i suoi difetti, rispetto alla quale, se permettete, le vicende delle notti sono la ciliegina sulla torta, ma la torta andata a male, a mia modestissima opinione, e questa è fatta di questa politica qua, di asimmetria di regole, di concessione, strizzando l'occhio al fatto che c'è sempre una finestra temporale nella quale tanto le regole non si rispettano. E mi dispiace dirlo, questa storia delle prime case in Campania, come tante volte abbiamo spiegato facendo parlare anche gli amministratori locali, che tutte le volte ci hanno spiegato che stava finendo l'eccezione della finestra temporale, che finalmente c'era la svolta in corso del rispetto dei criteri edilizi, e poi c'è sempre una mille proroga insalsicciata che ce lo mette in fondo alla tasca, se permettete, perché tanto alla fine pago io e pagate voi. Lo so che tanti si irritano per questo tipo di impostazioni che alcuni considerano demagogiche, perché ispirate al fatto sei contribuente tu come noi, perché ti scaldi tanto? Perché vorrei che vi scaldaste anche voi, appunto. Allora, con gli ospiti di oggi commentiamo alcune di queste perle, a mio modestissimo giudizio, cominciando proprio da questa misura di generosa comprensione verso le proprie stesse necessità che i partiti politici, della maggioranza ovviamente, che hanno votato questo provvedimento, si sono prese nei confronti degli abusi commessi dalle forze politiche nelle campagne elettorali, e cioè dal condono verso i manifesti dei partiti. Lo facciamo con la senatrice radicale del Partito Democratico, ma radicale, Donatella Poretti, perché io riconosco che i radicali, tutte le volte in cui si tratta di emolumenti, diminuzione delle cose dei partiti, eccetera, i radicali hanno una coerenza che, mi dispiace dirlo per tutti gli altri, nessun altro ha. E non mi dite per favore che è antipolitica, perché questa è la cosa più politica che ci sia, tentare di essere coerenti su queste cose. Mi prendo la responsabilità del mio giudizio. Buongiorno alla senatrice Poretti. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Ci illustra un pochino questo capolavoro dei partiti e dei manifesti, come funziona? Si ha detto bene lei, l'ha votato la maggioranza, perché ovviamente il decreto milleproroghe è passato ieri al Senato con un voto di fiducia. Però la proposta su questa sanatoria in realtà è, come si dice, bipartisan, nel senso che arriva da un emendamento con una bella doppia firma, Mario Gasbarri del Partito Democratico e Francesco Casoli del Popolo delle Libertà. E come mai c'è questa condivisione di questa cosa così a poco fondata, secondo me? Poco fondata, ma che si ripete annualmente, un rito questo del mille proroghe e della sanatoria sul manifesto selvaggio, che si ripete annualmente a seconda del governo di turno e dell'opposizione di turno, ma l'emendamento arriva sempre con la doppia firma di maggioranza e opposizione, proprio qualificante in questo senso qui, perché poi in realtà il piacere è reciproco. Chi imbratta i muri delle città ad ogni occasione elettorale, non c'è distinzione di maggioranza e di opposizione che tenga, e chi dovrebbe pagare quelle multe, che ricordo che per ogni affissione illegale si va dai 400 ai 1000 euro, e che invece con questo bel provvedimento si sana per ogni lista 1000 euro per tutto l'anno, basta farlo entro il 31 maggio del 2011 e quindi entro un paio di mesi, questa bella sanatoria alla fine fa comodo a tutti, esattamente come fanno comodo altre cose in questo senso qui. Nel mille proroghe per esempio c'è la proroga per richiedere rimborsi elettorali, cioè chi si era scordato di farlo entro quella data può chiederlo entro un'altra data, e anche qua è bipartisan, perché per esempio io che sono torinese devo ricordare per esempio a chi ci ascolta che questa cosa di dimenticarsi di non riuscire a depositare in tempo la domanda di rimborso era capitata per esempio alla lista civica Insieme per Bresso, la presidente uscente del PD a Torino, che grazie quindi a quella norma del mille proroghe adesso avranno diritto a chiedere circa 100.000 euro l'anno per la durata naturalmente della legislatura regionale. Come tutti si ricorderanno, la legge, il decreto sulle salve, il salvalista, che l'anno scorso per le regionali chi non aveva presentato la lista per tempo poi fu comunque il tutto sanato e condonato. Questi sono davvero, come si dice, provvedimenti che servono a sanare le illegalità dei partiti, noi radicali li chiamiamo la partitocrazia, e il cattivo esempio che arriva dalle istituzioni è evidente, è palese, è drammatico, perché poi alla fine sono soldi davvero, non soltanto soldi che non entrano nelle casse comunali, soldi fra l'altro che sono stati spesi per le squadre che sono state mandate in giro dai comuni per ripulire i muri e tutto quanto, e soldi in realtà che restano tranquillamente nelle casse dei partiti, che non vengono appunto invece pagati, come ricordava lei, chiunque cittadino, qualsiasi cittadino che gli arriva una multa, se non la paga per tempo perfino gli raddoppia, qui non solo non gli raddoppia ma addirittura cala e diventa praticamente irrisoria rispetto all'originale di quella che doveva essere la sanzione. I partiti su questo punto si sono, dopo essersi depenalizzati per la fissione abusiva nel 94, hanno varato condoni nel 96, nel 2001, nel 2005, nel 2008 e ora ci risiamo. Oltretutto, anche qui fuori dall'attenzione della norma salsiccia, abbiamo scherzato per quello che riguarda i tagli alla numerosità dei consigli. Ricordate? C'erano dei consigli comunali, si era detto, oltre di 1 milione di abitanti che dovevano scendere a 48 consiglieri invece che 60. Restano 60, è una norma che riguarda Milano per esempio. E così via, possono arrivare a 16 assessori le giunte anziché fermarsi a 12. Questo serve a Roma. Ma per la giunta di Alemanno, io voglio sapere come è possibile che, senatrice, restino in piedi provvedimenti della natura così eterogenea, in cui l'unica cosa che conta poi alla fine, ovviamente, come ovvio in questa circostanza politica ancora una volta, è la fiducia di maggioranza rispetto al no dell'opposizione, ma è l'impossibilità nel merito tanto di distinguere le cose necessarie, i finanziamenti per le alluvioni, la social car, queste cose qua, al di là del merito di che cosa poi si possa pensare rispetto a come sono normate all'interno della misura, rispetto poi alle tante schifezze che o qualcuno, se è della maggioranza, oppure in maniera bipartisan, come il più di queste norme di autolicenza concessa, di immunità, di schifo concesso ai partiti, se lo si fa in maniera bipartisan, tanto sapendo che su un provvedimento come questo non è possibile entrare nel merito. Non sarebbe il caso di smontarli i provvedimenti così, di renderli impossibili? È chiaro che non si possono fare solo misure omogenee in un paese così complesso, significherebbe una tale numerosità di atti normativi, ma in questa maniera è veramente il colmo, cioè non è possibile neanche rendersi conto della quantità di abusi spacciati per legge. Lei che pensa, senatrice? Ovviamente sono d'accordo con lei. Il problema, prima tutto questo avveniva nelle finanziarie, no? Nella vecchia finanziaria, era un carrozzone a cui ognuno cercava di attaccare il proprio la propria richiesta. Ora la finanziaria è cambiata e è rimasto il mille proroghe. Il mille proroghe è veramente diventato un rito, un'occasione per legalizzare tutti gli abusi e proporre tutte le sanatorie e le proroghe possibili e immaginabili, perché a questo punto è diventato un'occasione per aggiungere una proroga per cambiare una legge. Perché poi tanto si sa che senza mille proroghe l'Italia si fermerebbe, e quindi in qualche modo, se c'è una certezza, è che il mille proroghe deve essere comunque varato, pure se andasse alle elezioni domani l'altro, c'è la certezza che questo mille proroghe deve passare in qualche modo. Quindi il rischio che paventa lei è evidente, che un provvedimento del genere in teoria un paese civile degno non dovrebbe averlo. Purtroppo invece diventa, è la certezza di questo paese, che senza mille proroghe l'Italia non andrebbe avanti. Ma la cosa peggiore è che in realtà poi queste porcherie che ci sono sul mille proroghe sono davvero condivise a seconda della maggioranza e dell'opposizione di turno, perché ricordava lei tutti gli anni in cui c'è stata la sanatoria, e addirittura ricordo l'anno scorso a un certo punto un emendamento della Lega prevedeva di sanare il manifesto selvaggio ex ante, cioè addirittura prima delle regionali proponeva la proroga per il condono che andava a coprire anche tutte le regionali del 27 e del 28 marzo, che si arrivava veramente all'assurdo di fare una sanatoria per un evento che ancora non c'era stato. Poi quello lì si rimediò, non si fece la sanatoria ex ante, ma tanto si sapeva che nel mille proroghe di quest'anno si sarebbe tranquillamente coperta il manifesto selvaggio delle regionali dello scorso anno. Io ringrazio la senatrice Poletti, ricordando a voi tutti che nel mille proroghe c'è anche naturalmente la marcia indietro sul taglio che era stato annunciato, le retribuzioni per i membri delle municipalità, dei consigli di quartiere della città di oltre 250.000 abitanti. Naturalmente non trovate sui giornali che nel mille proroghe tutto torna esattamente come prima. Tanto quello che conta è la politica dell'annuncio quando si tratta di tagli. Per me, che considero assolutamente possibile e necessario tagliare la spesa pubblica di 7-8 punti di PIL, esattamente come ha fatto la Germania, con corrispettivi diminuzioni della pressione fiscale, senza che la Germania sia diventata un paese senza welfare, questa maniera di fare politica annunciando e promettendo i tagli delle spese delle tasse, e magari annunciandole anche con provvedimenti, per poi fare marcia indietro regolarmente e far rimanere nel migliore dei casi intatto il livello di spesa, ma anzi negli ultimi 10 anni sempre coerentemente in crescita, questo a me brucia più di chi scopa con chi. E vi potete arrabbiare, come molti di voi si stanno arrabbiando, dicendo: perché ieri sera non hai detto tutto questo al TG1? Ieri sera al TG1 mi hanno chiesto un commento di 30 secondi sulla proroga della moratoria bancaria, che è una cosa positiva, e ci infilo comunque anche in quel caso, negli ultimi 5 secondi, sempre una cosa: la Germania che ha tagliato le spese e le tasse. Se voi volete fare i censori, lo fate con qualcuno che non critica come me, altrimenti l'opinione legittimamente è diversa. Ci mancherebbe, io non sono mica il depositario della verità, però guardate che guardatevi intorno prima di dire che questo è il giornalismo servile di Berlusconi o di chi cavolo volete voi. A me sembra che molti di voi siano così accesi da una specie di complesso di curva sud e curva nord che non vi interessano i particolari concreti, vi interessa solo un meccanismo di rimozione mentale di un problema. È molto più difficile risolvere e rimuovere i problemi concreti come questi. E allora passiamo adesso al secondo capitolo, questo bel capolavoro, almeno questo è il mio giudizio, dell'euro aggiunto di tassa sul biglietto del cinematografo, dicendo che questo serve a venire incontro a chi aveva protestato contro i tagli pubblici alla cultura. Io non sono molto favorevole a protestare contro i tagli, ma l'ultima cosa che vorrei è questo euro di tasso in più che colpisce gli italiani. Allora facciamo rapidamente così, partiamo subito con la pubblicità e poi con i due ospiti, con Paolo Protti e Riccardo Tozzi, su cui discutiamo dell'euro per il cinema. Allora, per l'accesso alle sale cinematografiche ed esclusione di quelle delle comunità ecclesiali e religiose si chiede un contributo speciale a carico dello spettatore pari a un euro da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La misura dovrebbe fruttare 45 milioni di euro nel 2011, 90 milioni di euro nel 2012 e 2013 e servirebbe a finanziare gli sgravi fiscali alla produzione cinematografica. Questo è il motivo per cui vi beccate l'euro in più, ed è un euro la cui giustificazione ricade su tutti coloro che hanno protestato, gli attori, gli attrici, gli autori, gli esercenti, i produttori, che hanno protestato per i tagli al fondo dello spettacolo, quello gestito dal Ministero dei Beni Culturali. Io che non ero favorevole ai tagli, perché non mi piace il cinema e l'arte sovvenzionata e la cultura sovvenzionata, abbiamo tante volte affrontato in queste trasmissioni l'esempio di come si potrebbe fare in un paese diversamente ordinato un regime di assai diverso incentivo ai privati a gestire patrimonio artistico, monumentale, museale, eccetera, eccetera. penso che le espressioni come il cinema nei paesi in cui non c'è contributo pubblico non per questo non esistano. Rispetto al punto di vista completamente diverso, la mia è una minoranza, che nel paese pensa invece che debba essere lo Stato munifico, cioè i contribuenti coi soldi miei, tanto per cambiare, a finanziare anche il cinema. Però non tollero, mi sembra una grande ipocrisia questa storia dell'euro in più che viene addossata a chi aveva protestato. Se uno decide di tagliare, taglia, ma non è che mette la tassa in più per colpire chi va al cinema. Può essere che io mi sbagli, lo abbiamo chiesto allora a Riccardo Tozzi, che è il presidente della sezione produttori dell'Anica, e a Paolo Protti, che è il presidente dell'Agis, di spiegarci dal loro punto di vista come vedono questa cosa. Cominciamo da Tozzi, io saluto entrambi, buongiorno a Tozzi, buongiorno a Protti. Buongiorno. E cominciamo da Riccardo Tozzi, come vede questo euro in più? Ma la vedo esattamente come lei, condivido totalmente quello che ha detto in termini specifici e in termini generali, però devo fare una precisazione. Questo finanziamento non serve al FUS, cioè a quella roba di soldi pubblici da destinare ai film che non troverebbero sul mercato, eccetera. Se lo piglia lo Stato e basta. No, serve a finanziare gli incentivi fiscali, e su questo bisogna essere chiari. Non è vero che gli incentivi fiscali non ci sono nelle cinematografie nostre concorrenti. Negli Stati Uniti ci sono incentivi fiscali da Stato a Stato che stanno fra il 25 e il 40%, cioè il doppio dei nostri. Lo stesso in Inghilterra, in Germania. Verissimo, in infatti io parlavo della contribuzione diretta, ha ragione. È un meccanismo sano che credo a lei piaccia molto, come piace a me, perché genera ulteriori risorse su cui poi il fisco esercita la sua attività e recupera ampiamente. Per cui questi incentivi fiscali andavano semplicemente rinnovati a carico della fiscalità generale, trovando la loro copertura, per esempio, come lei ha detto in modo sacrosanto, su quello scandalosissimo condono sull'affissione da parte dei partiti, o potrei anche generalizzare: continuiamo a avere finanziamento pubblico dei partiti dopo un referendum larghissimamente vinto dall'opinione contraria, ma insomma non allarghiamoci troppo. Ricordiamo che la somma di tutti i contributi che si portano a casa ogni anno ammonta a oltre 2 miliardi e mezzo di euro ogni anno, sommando il livello nazionale, regionale ed europeo. Questo è quello che si ciucciano a casa. Scusi, è l'inciso, sì, perché poi è meglio ricordarlo. E altro inciso, è 6 volte quello che noi avevamo abolito col referendum, esatto. Quindi stiamo parlando di questo tipo di presa in giro. Comunque torniamo all'euro cinema. Ma tornando al nostro piccolo euro, quindi quel provvedimento era sacrosanto, è alla base del grandissimo successo del cinema italiano di questi anni, che è un caso mondiale, perché noi a gennaio e febbraio di quest'anno abbiamo una quota di mercato del 65% in Italia, che è la più alta del mondo. Quindi un provvedimento che ha avuto un effetto positivo chiarissimo, che costa poco, sono 90-100 milioni all'anno, e andava finanziato sulla fiscalità generale, perché questo è il criterio specifico e generale in questo senso. Non hanno avuto il coraggio di farlo, probabilmente perché il ministro Bondi non ha avuto la forza di ottenere questa cosa da Tremonti, mentre altri hanno la forza di ottenere 1 miliardo valgono le multe sull'affissione, e altri hanno avuto la possibilità di ottenere, e quindi si sono rifatti sullo spettatore. Naturalmente noi produttori diciamo che, siccome senza quegli incentivi fiscali tutto il sistema sarebbe andato per aria, pistola alla tempia, è meglio questo che niente, ma resta quello che lei ha correttamente definito uno schifo. Allora, Paolo Protti, presidente dell'Agis, voi avete annunciato che parte una campagna anche nelle sale cinematografiche per dire agli spettatori: guardate che il governo, la cosa, la farete davvero? Certamente, è talmente lampante quello che ha detto lei e anche quello che ha sottolineato Tozzi che è inevitabile far chiarezza. Questo si chiama contributo speciale a carico dello spettatore. Già il telegiornale, il nostro stesso servizio del TG1 di cui parlava lei ieri sera, ha detto il prezzo del biglietto aumenterà, perché questo è l'effetto, ma è un effetto perverso perché crea due situazioni. Primo, allontanare il pubblico che era tornato a vedere frequentare le sale e quindi pagare il biglietto del cinema, e quindi c'è il rischio che quella finalità di creare un certo monte di denaro sia un monte diminuito, L'altro problema che si pone è che il biglietto del cinema poi fa parte del paniere, quindi si crea anche un sistema inflattivo, perché un euro significa mediamente un aumento del 16%. Se poi pensiamo a tutte le politiche promozionali, incide su certi prezzi come gli anziani, gli abbonamenti e altre iniziative tra il 25 e il 30%, quindi un aumento di inflazione enorme. Però poi passo indietro, c'è da dire questo. Confermando l'impostazione iniziale sua, c'è lo Stato che ha abdicato a un suo ruolo e soprattutto ha abdicato alla sua responsabilità, perché la responsabilità non è soltanto di aver scaricato sugli spettatori un finanziamento che parte da un concetto di agevolazione fiscale e quindi spetta al governo stesso, ma soprattutto c'è dietro le quinte anche la incapacità nell'ultimo periodo, di fronte al successo meritorio del cinema italiano in particolare, di modificare delle leggi che hanno costruito un debito da parte dello Stato verso la produzione. La produzione è legittimo che abbia questi contributi perché fa parte di una legge, però a questo punto lo Stato decine di milioni di euro li scarica sullo spettatore di fatto per andare a pagare qualcosa che aveva contratto lui, il debito. Questo noi non possiamo starci, ma non è che non ci stiamo nei confronti dello Stato, perché ripeto, i produttori hanno operato legittimamente e hanno fatto anche bene il loro mestiere producendo un cinema che siamo tornati a vedere tutti nelle sale. Il problema è che se diminuisce, aumentando i prezzi è evidente che diminuisce il pubblico, si fa un'operazione contraria, quindi si va a mettere in crisi una parte del sistema che tra l'altro Riccardo Tozzi, ci siamo parlati, lo sa benissimo, è fondamentale perché è tornato a essere il punto centrale, non è il punto primario del ritorno economico per il prodotto film, ma è il punto centrale di partenza, indispensabile. Se si mette in crisi quello, si mette in crisi tutta la filiera. Ed è da questo punto che noi chiediamo che da tempo che il prelievo non deve essere a carico dello spettatore, ma deve essere frazionato su tutti i soggetti che utilizzano il prodotto cinematografico. Però si crea un monte di denaro sufficiente. Se andiamo a vedere in termini comparati, cioè i maggiori paesi europei, insomma, oltre frontiera, le pretese dello Stato di aumentare la tassazione diretta sul consumatore finale in sala sono fondate, nel senso che fino a questo momento il cinema godeva di un regime fiscale, mi scappa la risata, ma devo fare la domanda, di un regime fiscale particolarmente favorevole nel nostro paese rispetto agli altri, e quindi i politici hanno una qualche ragione ad aumentare il margine di prelievo diretto, oppure no, e hanno torto? Ma hanno assolutamente torto, non è un provvedimento come questo non esiste in nessun paese, ci siamo confrontati con i colleghi di tutta Europa. È un mosaico, c'è un sistema che ormai è mitico, quello francese, che però ha una legge di sistema alla quale contribuiscono tutti, in cui esiste il prelievo sul biglietto anche della sala cinematografica, con un ritorno però specifico alla stessa sala, e quindi è un sistema virtuoso, ma contribuisce alla creazione di questo fondo ogni soggetto, dalle televisioni, i provider, TV a pagamento, eccetera. Gli altri paesi hanno tutti i sistemi di incentivi oltre che di sostegno. Lei ha parlato prima della Germania. La Germania di Angela Merkel nel campo della cultura e dello spettacolo ha assolutamente fatto un taglio quasi direi indolore, perché era un taglio del 2%, perché lei ha detto siamo contro la sovvenzione, su quello sì, però non bisogna dimenticare che siamo un sistema di imprese, quindi come tutte le altre imprese, dalle metalmeccaniche alle farmaceutiche, anche il mondo dello spettacolo, della cultura, è un sistema di imprese che ha bisogno dei suoi incentivi. Questa è la differenza di fondo. Io sono contrario alle sovvenzioni, ai sostegni diretti, sia nel capitale di rischio che nel capitale di debito. Sono favorevole a sistemi di incentivi automatici, non discrezionali, che premino le imprese a investire di più, a avere maggiori ritorni e avere meno stato tra i piedi. Questo è il punto di fondo. Faccio notare comunque che anche la tassa prevista nell'ordinamento di sistema francese, incardinato sulla tutela della produzione nazionale, sulla priorità della lingua francese e così via, sappiamo quanto su questo la tutela sia a mio giudizio eccessiva dell'eccezionalismo francese. Comunque anche nel caso del prelievo diretto sul biglietto francese siamo a una percentuale che grava sul biglietto inferiore a questa dell'euro sbattuto aggiuntivamente nel PIL proroghe in più. Allora Tozzi, quando c'è il ragionamento nei mesi scaldi, quelli in cui c'è stata la grande protesta contro i tagli al Fondo Unico dello Spettacolo, in cui tutta la comunità artistica, cinematografica e insomma anche molto del mondo della cultura ha iniziato a puntare il dito contro il ministro Bondi dicendo sei un debole, Tremonti te la fa sotto i piedi e tu non sei in grado di tutelarci. Si è capito però a un certo punto che c'era anche una certa, non dico rivalità, ma insomma non c'era una piena convergenza tra tutti gli attori della filiera cinematografica, cioè tra i produttori da una parte, gli autori dall'altra, i gestori di sale soprattutto. Questa divisione, chiamiamola così, che è fisiologica, perché è ovvio che in un campo gli attori fanno mestieri diversi, gli attori in campo, non dico gli attori dal punto di vista di chi fa la professione dell'attore, gli attori di qualunque partita, se svolgono ruoli diversi, hanno interessi diversi, ma in qualche maniera questa divergenza degli interessi ha facilitato, ha indebolito e consente meglio alla politica poi di risolversela tutta con un euro di tasse in più sul consumatore nelle sale, secondo lei, Tozzi? Temo un po' sì, nel caso specifico però c'è da dire che noi produttori e gli esercenti in realtà non abbiamo un interesse diverso, nel senso che questi incentivi fiscali, che non sono il finanziamento dello Stato alla produzione, sono incentivi automatici, certo. Assolutamente pari a quelli che hanno i nostri concorrenti anglosassoni, per dire. Questi incentivi sono fondamentali per produrre il cinema italiano, questo cinema italiano che non è decisivo solo per noi produttori, ma pure per le sale, perché quando il 65% degli incassi sono fatti da film italiani, le sale non vivrebbero senza quei film. D'altra parte noi senza le sale che crescono, investono e si sviluppano non potremmo raggiungere questi risultati, quindi noi rispetto a questi incentivi fiscali, noi e gli esercenti abbiamo esattamente lo stesso interesse, naturalmente abbiamo due sensibilità diverse, cioè noi quando vediamo, noi produttori quando vediamo svanire l'incentivo fiscale sentiamo subito che ci fa perdere l'attività produttiva, no? E quindi messi nell'angolo siamo pronti a accettare qualsiasi cosa. Loro invece sono all'altro capo del filo e sono sensibili alla possibilità di diminuzione del pubblico, o non credo che il pubblico diminuirebbe, ma al problema dei loro equilibri gestionali, perché hanno fatto grossi investimenti di cui noi usufruiamo anche. Quindi sono due sensibilità diverse, ma l'interesse è esattamente lo stesso, e siccome questo provvedimento entra in vigore il 1 luglio, noi abbiamo 4 mesi per far entrare nella testa del governo che gli incentivi fiscali sono provvedimenti che vanno finanziati sulla fiscalità generale. È un principio logico e di sistema. Poi i prelievi, se si fanno, si decidono insieme per altre cose, cioè il finanziamento delle attività culturali, eccetera. Ma questo è politica industriale e non esiste settore in cui la politica degli incentivi viene fatta facendola pagare ai clienti di quel settore. Sono molto d'accordo, sono molto d'accordo, perché qui altrimenti si seziona, per così dire, ogni singolo settore dei beni di consumo di massa, come dei servizi, come del leisure, come del tempo libero, come dell'infotainment e così via, e per ciascun segmento la politica decide come colpire di più il consumatore a seconda della forza relativa degli interessi di quel settore. E questa poi è la maniera che distingue regimi di tassazione così differenziati. E questo è un principio che ovviamente fa a pugni con la fisiologica convergenza di un ordinamento fiscale attraverso l'omologazione delle aliquote che gravano su cespiti paragonabili, anche se magari di fonte diversa, perché questa è la neutralità dell'ordinamento fiscale. Quanto più per cespiti, sia pure di diversa provenienza, c'è un'imposta e un peso fiscale omologo, tanto più gli operatori, il mercato, le imprese, i consumatori sono liberi di scegliere in comparata che cosa è meglio. Quanto più il politico distingue la forza relativa degli interessi dietro ogni filiera e si riserva di decidere, come in questo caso, la stangata fiscale ai danni del consumatore fiscale, tanto meno è possibile la neutralità delle scelte, tanto meno efficacemente funziona il mercato. Il politico, come sempre, è ladro, è corrotto. Io ringrazio Protti e Tozzi, che hanno più equilibrio di me, ma io perdo la pazienza di fronte a queste cose, la perdo di più che chi scopa con chi, lo ripeto, perché questo significa non avere in mente come la politica deve evitare di corrompere i pozzi del mercato. E stiamo parlando di un mercato fondamentale come quello della produzione cinematografica, per cui l'Italia ha non solo l'eccellenza che ha, ma potrebbe ambire ad averne di più se lo Stato non rompesse le scatole. Non dico facendo cose a favore, ma almeno evitando di creare altri guai contro, come in questo caso. Ringrazio Tossi, ringrazio Protti, abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale e dopo l'ultima perla, il grande scambio. La Lega si porta a casa la protrazione del mancato pagamento ancora per un po' delle multe latte e in cambio il Sud si becca che le ruspe si fermano per non abbattere le case abusive in Campania. Questo è quello che c'era al mille proroghe. Leggete, leggete. Dove? Tranne che sul Sole 24 Ore Oggi, sugli altri giornali, queste robe qua non le leggete. Il tanto vituperato giornale di Confindustria, che voi dite essere anche lui al servizio di chissà quali innominabili interessi. E intanto è così. Questo bello scambietto Nord-Sud, a tra poco. E sarà un caso, sarà una necessità, in questo mille proroghe, tra le tante misure che vengono assunte, ce n'è una che incrocia in maniera singolare abusi del nord e abusi del sud. Naturalmente sto parlando di due articoli diversi, però a volte un indizio, più indizi iniziano a fare una prova del fatto che a sospettare, sì, si sbaglia, ma talvolta non si sbaglia poi troppo. Di che cosa sto parlando? Sto parlando del fatto che slitta ancora una volta di altri 6 mesi. La scadenza che in teoria era stata fissata al 31 dicembre alle nostre spalle viene portata invece alla fine di giugno per il pagamento delle multe sulle quote latte. Altri 6 mesi di tempo agli allevatori non in regola. Stiamo parlando di poco più di 200-300 allevatori, però allevatori che stanno molto a cuore, avendo protestato per anni sostenendo che il regime delle sanzioni derivava da improntitudine della politica italiana al tavolo della politica agricola europea. È un lunghissimo contenzioso. Io sono tra quelli che anni e anni fa, quando la vicenda delle multe alle quote latte partì, ho difeso le ragioni di chi ha accusato la politica italiana di non essere stata capace con forza di far valere le ragioni del settore agricolo e del settore dell'allevamento nel nostro paese, perché alla nascita e per lunghi anni la politica agricola, che sapete era arrivata a contare oltre il 70% del bilancio comunitario, era esclusivamente improntata alla tutela degli eccessi di produzione dei paesi nord europei. E è stato così. Detto tutto questo, negli anni, anni dopo anni, alla fine strappato un peso, un riconoscimento maggiore anche per il nostro settore in Italia, questa lunghissima coda delle sanzioni a chi continua a non rispettare le nuove regole, dal mio punto di vista è diventata una classica bandierina politica, e questa bandiera, lo sappiamo perfettamente, interessa alla Lega. Nella mille proroghe, a fianco di questa ennesima proroga dell'inizio dei piani di rateazione per far pagare le multe anche alle poche centinaia di soggetti che tuttavia continuano a essere renitenti all'obbligo, c'è anche la misura che riguarda invece la protrazione del termine entro il quale le ruspe non devono abbattere le prime case che sono in piena violazione dei piani abitativi, paesaggistici, regolatori in Campania. Norma che ancora una volta viene individuata come, no, per carità, c'è l'emergenza assoluta, sono prime case, come si fa? Guarda caso, gli interessi del nord e gli interessi del sud si pareggiano. Sentiamo come alcuni di voi ascoltatori la pensano su tutta questa bella misura. Fabio, che chiama dalla provincia di Vicenza, prego Fabio. Sì, pronto, buongiorno. Dica. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Niente, io semplicemente da questo decreto mille prove prenderei spunto da queste due cose, da questa sorta di sanatoria edilizia e da quello che ha detto prima a proposito dei partiti, diciamo, del condono. È semplicemente una cosa che comunque si denota ancora una volta un disprezzo per il cittadino comune, cioè semplicemente come se fossimo arrivati alla fine dell'impero, dove si cerca di arraffare più che può i propri gerarchi, ognuno si porta a casa qualsiasi cosa e dice tanto dopo, ormai siamo arrivati all'ultimo stadio e amen. Ma qui è sempre un ultimo stadio al quale poi ne seguirà un altro ultimo. Sentiamo come la pensa Corrado dalla provincia di Verona. Prego Corrado. Buongiorno Oscar, intanto complimenti vivissimi per la trasmissione e appoggio sempre pienamente quello che dite in trasmissione. E volevo fare un parallelo tra questo discorso del decreto, del modo in cui è stato concepito il decreto mille proroghe e la butto lì il discorso con cui viene fatta sempre la pubblicità sul rinnovo del canone RAI. Lo sanno anche i sassi che il canone RAI è una tassa di concessione regovernativa che risale ancora al Regno d'Italia per l'apparecchio televisivo opportunamente collegato. puntualmente uno Stato che mi pubblicizza il rinnovo del canone RAI come un canone di abbonamento al programma RAI, vedi la pubblicità che è sta generando. È uno Stato mentitore e corruttore. Mentitore, ma mentitore di brutto. Questo fa capire in che mani siamo, e purtroppo lo condivido come lei, Oscar, che all'ultimo stadio ne segue sempre un altro. Cioè, è inutile che mi vengano a dire che il canone RAI serve, anche la BBC ha il canone in Inghilterra per i programmi. Ai canoni si programmi BBC, non il canone come tassa governativa sull'apparecchio televisivo. Se loro sanno benissimo che se dessero la libertà di scegliere, il canone RAI, oltre all'evasione che mi pare si aggira intorno al 30%, raddoppierebbe quantomeno, ecco, perché a quel punto lì la gente avrebbe la possibilità superiore al 30%, perché esiste una parte che ma anche una parte che consapevolmente dice allo Stato mentitore io non gli do un euro. Per quanto mi riguarda, ci sono tanti altri ascoltatori, spero che la maggior parte di loro la pensasse come noi, e cioè che lo sdegno è la maniera migliore talvolta non di indignarsi eccetera, ma di informare sui contenuti concreti di queste belle misure in cui lo Stato per sé, per la politica, per i partiti, per i costi della politica continua a dire abbiamo scherzato, mentre per noi e per voi dice pagate somari, pagate e state zitti, perché altrimenti poi Befera vi dice che finché non cambiate marcia noi le tasse non ve le abbassiamo. Befera, capite che è un pubblico funzionario, non un politico. Siamo arrivati che il pubblico funzionario, capo dell'Agenzia delle Entrate, fa i proclami come se fosse il ministro eletto. Io di un paese così, che mi tratta in questo modo, mi indigno di più di chi scopa con chi, perché non rispetta la cosa elementare che distingue un cittadino da un suddito. Sudditi se li meriteranno loro, io voglio essere cittadino a costo di violare le leggi che mi fanno schifo, perché disconosco la legittimità di chi si prende questa roba del due pesi e due misure. La democrazia è un peso e una misura per il cittadino come per lo Stato e la politica. Qui loro, e ci metto anche i signori della sinistra che su queste misure dei costi della politica sono sempre d'accordo, sempre che vi dicano, invece dicono sempre due pesi e due misure. E i due pesi e due misure non valgono solo per l'etica sessuale, valgono innanzitutto per i soldi miei, quelli del contribuente, i vostri. Appuntamento a domani.